Torniamo a Bologna con molto piacere perché la relazione che si è ormai stabilita con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, è veramente molto forte e fruttuosa. Torniamo appunto anche per questa edizione a poter esprimerci, a poter parlare, a rivendicare del potere da parte della cittadinanza tutta proprio a Bologna. Daremo ampio spazio alla voce di persone, soprattutto di coloro i quali vivono tendenzialmente in condizioni vulnerabili e marginalizzate. E quindi quello che vorremmo fare è impegnarci tutti quanti affinché si possano superare barriere alla partecipazione anche attraverso possibilità e iniziative assolutamente innovative. Leggendo appunto il tema di questa edizione, viene un po' in mente la canzone di Patti Smith, People Have the Power. Questo che sostenete? Beh, sì, direi proprio di sì. Il potere non è un concetto negativo come spesso negli ultimi anni abbiamo dovuto condividere tra tanti di noi, no? Dovendolo legare a situazioni sicuramente molto molto complesse e disdicevoli. Il potere è qualcosa di assolutamente molto positivo, è la possibilità di rivendicare i propri diritti e di contrastare le disuguaglianze. E quindi sì, noi vorremmo che il potere sia tornato, possa tornare nelle mani di tutti i cittadini, delle cittadine, tutte le persone che hanno la necessità, la voglia e di nuovo il diritto di poter rivendicare i propri spazi e la propria voce. Come di consueto in questi 3 giorni ci saranno talk, workshop, eventi. Cosa ti senti di segnalarci? È molto complicato perché abbiamo veramente tanti eventi importanti. Probabilmente segnalerei l'ultimo evento, perché in quell'ultimo evento sottolineiamo proprio quello che abbiamo detto finora. Diamo spazio a tante voci, ma diamo spazio soprattutto alle prospettive future, alla partecipazione vera e concreta delle persone in dialogo con le istituzioni. Quindi vi invito a seguire quell'evento e a seguirlo anche a distanza, non c'è necessità in quel caso di essere presenti, quindi di chiudere con noi per accompagnarci alla prossima edizione, che già sappiamo sarà un'edizione che parlerà di nuovo di partecipazione, ma soprattutto di inclusione. Sempre spulciando nel programma, accenderete i riflettori su cosa significhi essere anche attivista in dissenso. Sì, questo è molto importante. Il conflitto, il dissenso, se gestito nel migliore dei modi, è una parte sana dello sviluppo della democrazia. È la possibilità del confronto, dell'opportunità che si ha di dialogare e di avere più prospettive che possono appunto unirsi tra loro. A volte queste prospettive devono essere anche reclamate con forza, perché lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che nel rispetto di ciascuno e nel venir meno di ogni forma di violenza, il dissenso aperto, la voce alta, sicuramente aiutano a far sì che certe istanze possano essere ascoltate ancora meglio. Prendo spunto insomma da questa cosa, in particolare dal dissenso che ad esempio si manifesta sulla crisi climatica in questi ultimi anni. E attorno alla crisi climatica spesso si verifica anche il fenomeno del greenwashing. Voi che seguite il tema della partecipazione da tanto tempo, vi è mai capitato di incontrare anche una sorta di washing attorno alla partecipazione, cioè una partecipazione che viene sbandierata ma che poi in realtà non è concreta? È una bellissima domanda, perché c'è molta verità in questa domanda che mi pone. È esattamente così. Tra l'altro, diciamo, se vogliamo vedere l'aspetto più benevolo di tutto questo, ci possiamo dire che spesse volte la partecipazione viene fatta aderire alla semplice consultazione, un ascolto molto passivo, quindi non attivo, non operativo. E questo, ai noi, viene frequentemente svolto anche dalle istituzioni, non da ultimo anche da quelle italiane, che appunto non di rado parlano di coinvolgimento della cittadinanza e poi tutto si risolve magari nell'aver chiesto di rispondere a 2 o 3 domandine magari anche chiuse con dei sì e con no. Ecco, questa non è partecipazione. La partecipazione contempla innanzitutto la condivisione di informazioni in modo trasparente, e anche questo è qualcosa che ai noi manca tantissimo nel nostro paese, ma non solo se guardiamo al contesto europeo. Quindi questo è il primo punto per far sì che si parli di vera partecipazione. Dopodiché la partecipazione contempla la costruzione, quindi, come si diceva prima, il confronto, la possibilità di portare avanti delle istanze, delle consapevolezze, e quindi di costruire delle realtà terze che non siano necessariamente quelle imposte in un processo che si suol dire, che dicono quelli bravi, top down. E allora, per approfondire questi altri temi, io rinnovo l'appuntamento dal 13 comincia il 15 settembre in diversi luoghi in realtà, giusto? Sì, esatto, saremo il venerdì negli spazi della regione Emilia Romagna, come vi dicevo lavoriamo anche molto in collaborazione con la regione e con il comune, e quindi saremo tutto il venerdì negli edifici della regione, mentre ci spostiamo nel centro di Bologna il sabato e la domenica. Certo, in sala borsa. Io ricordo il sito per trovare il programma completo, che è festivaldellapartecipazione.org.